Trippon, serve un po' di Windows. Ma faccia fai mouse. Bacia Palmaun. Incontri e avvistamenti dalla strada al cyberspazio. Un programma a cura dell'OA di Milano. Mezzanotte 59, Radio Popolare va a Ciappai Mouse. Pensavate di non sentirci più perché avevamo sbagliato la data la volta scorsa. Ma non avevamo sbagliato la data, era che non ci eravamo più ricordati che c'era il Rototom, ma non se lo ricordava più nessuno. E quindi, una settimana dopo, fate i conti ancora con noi. Ciao! Una tranquilla domenica verso la fine di giugno. Pola comincia ad accogliere flusso turistico del vicino occidente più prossimo. Vacanzieri con occhi persi trotterellano fra le volte dell'arena romana, millantando conoscenze storiche che li rendono solo ridicoli. Mamme nascoste sotto ampi copricapi caracollano verso la spiaggia, ostentando quanto più stress possono, ma non si scrollano di dosso il grappolo di mocciosi vocianti che strepitano stridulamente per poter fare il bagno. Ti ho detto di no, Pier Giancarlo, è troppo presto. La sai la regola delle 4 ore, non discuto. Sulle spiagge, spilungoni 70% muscoli 30% non pervenuto si esibiscono in tuffi dagli scogli per farsi belli agli occhi delle ragazze. Una famiglia di inglesi incastrati nel loro inappuntabile fair play marittimo osservano indispettiti una famiglia di romani che ha montato una tenda condominiale 7x14 e sta preparando 30 kg di braciole alla griglia, ruttando a tutto spiano vapori di birra favorite. Per tutti è una normale, ordinaria vacanza estiva. Per tutti, o quasi. Sono tutti in fila, uno accanto all'altro, il viso semicelato da berrettini Open Free Linux GNU BSD. Impugnano palmari wireless con i quali controllano improbabili modellini di anfibi aviotrasportati in scala 1 a 4 che terrorizzano le nonnine in cerca di qualche momento di relax. Qualche metro dentro la pineta, altri 30 stanno montando un campo. 7 tende a 2 piani disposte secondo uno schema inagonale irregolare accuratamente calcolato circondano una cucina comune. Un grosso armadio rack contenente 2 forni a microonde e 2 piastre elettriche, pilotabili in rete. Gli ultimi pannelli solari vengono sistemati, le ultime antenne vengono erette a totemico simbolo di una civiltà pervasiva ed insondabile dai profani. Uno di loro sbuca dal campo, scrutando l'orizzonte dietro i suoi occhiali rifrattori classe Hubble. Sulla sua maglietta è possibile leggere la scritta protezione totale. Quelle presenze sono hacker. Kiss me. 1:05, va, c'è Pai Mouse, stasera uno studio con un sacco di gente. Gremito, ci abbiamo un sacco di ospiti. Chi sono? Io non volevo cominciare così, però volevo cominciare in un'altra maniera. Allora comincia. Possiamo ricominciare dal capo. Ricominciamo. Oh, io perché io, cioè, nella sigla c'è trasmissione dell'OA Club Milano, eccetera, eccetera. E noi nelle poche volte in cui siamo stati in questo anno nello studio, abbiamo parlato, abbiamo sempre fatto riferimento al fatto che nel bulk, nel deposito bulk, c'è questo laboratorio hacker è nato, si è pasciuto del bulk ed è andato avanti al suo interno. Poi purtroppo un anno e mezzo fa circa c'è stato uno dei primi grossi attacchi che il bulk ha subito, che gli è costato la corrente elettrica. Per cui poi noi in prima persona, per chi ci ha seguito lo sa, abbiamo smesso le attività all'interno del laboratorio, ma non per questo non siamo rimasti vicini ai compagni del bulco. Compagni! Pessimo. Pessimerrimo. Cerco di fare facile ironia, perché invece la situazione nel frattempo si è aggravata, nel senso che il bulco sta subendo un attacco molto più violento di quello della corrente elettrica, e noi abbiamo invitato un po' dei nostri amici del bulk qui, che sono Martina, Teo, tu chi sei? Amy. Si è arreso. E Alberto, a parlare un po' della situazione, anche se siamo belli allegri, sappiamo che comunque la situazione è abbastanza pesante. E i microfoni, ragazzi. Iniziamo. Vai. No, ma si parla rigorosamente vicino al microfono, perché sì. Sono sensibili, ma non così tanto. Iniziamo facendo un riassunto un po' degli ultimi avvenimenti. Un paio di mesi fa abbiamo appreso. Posso farlo senza cuffie? E mi non vuole le cuffie. Insomma, basta. Pensavo ti aiutassi. Un paio di mesi fa abbiamo appreso da un giornale che l'area sulla quale c'è il bulk, dove esiste il bulk, è un'area che a breve verrà ristrutturata, rimessa a nuovo. E questo l'abbiamo capito appunto da un giornale. La domanda è sotto spontanea: noi in quest'area che ruolo avremo, in che modo potremo condizionarla? Naturalmente non c'era posto per il bulk, non c'è posto per il bulk in quell'area. Quella è un'area che verrà adibita a parcheggi piuttosto che centri commerciali più o meno nuovi. E il bulk naturalmente doveva andarsene. Il bulk si è mosso e ha cercato di capire un pochettino da che parte arrivavano questi progetti, chi li spingeva, in che modo si poteva salvaguardare il bulk e tutto quello che dentro il bulk viene fatto, tutto quello che dal bulk esce per la metropoli, per la città. Caso strano, dopo innumerevoli sgomberi negli ultimi 7 anni, noi siamo stati più volte sgomberati dal vecchio bulk di Sturzo, da una casa che avevamo occupato, che è quella di Metropolix, che ha vissuto addirittura 2 siti diversi perché è stata sgomberata più volte. Stai attento che quasi, come si parla sempre di informatica, 16 siti e capito. due ubicazioni. Due luoghi. Vabbè, comunque, insomma, la novità è che la proprietà, questa volta, la proprietà dello spazio che abbiamo occupato, questa volta ha deciso invece di cercare un'altra strada diversa da quella dello sgombero, come l'abbiamo conosciuto in particolare nell'ultimo anno, per cui polizia, sgomberi senza trattative, eccetera, eccetera. Ha pensato di poter mettere in campo una trattativa. Ha preso contatto con noi attraverso altre parti, altri interlocutori, e ha chiesto un incontro con noi per discutere appunto di alternative allo sgombero allo sgombero puro. L'incontro è stato preparato, ci siamo andati, naturalmente con chiaro in testa il fatto che il bulk è una ricchezza per questa città e che appunto era questo quello che dovevamo portare avanti, che non era un problema soltanto del bulk se veniva sgomberato, ma il problema di una sorta di bonaccia che ultimamente aleggia sulla città di Milano, in generale, che non va bene, che porta agli sgomberi, che porta magari a poche ripercussioni personali su chi occupa, ma che comunque non dà lo spazio a chi vuole occupare, a chi vuole fare controcultura a Milano. Eh? e ci sono stati degli incontri con la proprietà. Okay. Quindi volevo passare la parola a qualcun altro, perché ho la gola arsa. È solo che Martina annuisce, perché lei è convinta che siamo in televisione. Perché se tu fai così non ti vedono. Se dici sì, sì, già fa meglio. Cercavo di fare un segnale a Amy. Ah, così. Che a un certo punto smettesse di parlare e facesse parlare qualcun altro. Io mi chiamo Marco. Vabbè. Allora, ci siamo preparati per questo incontro. L'unica cosa che avevamo in mano certa era che l'ordinanza di sgombero, che vabbè, è diciamo il primo atto che viene nel momento in cui viene chiesto lo sgombero di uno spazio dopo la denuncia per occupazione, era stata firmata dalla magistratura. Da quel momento in poi sta solo al questore e alla polizia a decidere quando e come intervenire. Fra l'altro, nell'ordinanza di sgombero del Bulk, addirittura nell'ordinanza di sgombero firmata dalla magistratura, si parla chiaramente dei benefici sociali e culturali che il Bulk ha sulla città di Milano, e per cui sembra proprio paradossale che nonostante questo, nonostante venga riconosciuto anche negli riconosciuto ambiti, in extremis proprio. Esatto, negli ambiti più estremi. Ricordiamo che di fronte al Bulk c'è la fabbrica del vapore. Sì, uno dei più grossi flop di varie amministrazioni comunali di Milano. E, che diventerà un parcheggio ovviamente, esatto. Perché su cui comunque si sono spese campagne elettorali e campagne elettorali nella migliore delle ipotesi ovviamente, ma da davanti i giovani devono anche parcheggiare la loro auto, per cui insomma diamo anche questa possibilità. Comunque ci siamo preparati per questo incontro avendo in mano sostanzialmente solo questo, sapendo che la Bulk era una proprietà dell'Enel, che è passato di proprietà poi nel corso degli anni, perché noi abbiamo occupato nel 2000, quindi nel corso di questi 4 anni è passato anche di proprietà. Adesso è in mano ad alcune agenzie immobiliari che poi, secondo il gioco delle scatole cinesi, vai a capire dove, a chi fanno capo. E, ora, la situazione è delicata, è quella per cui noi ci siamo trovati di fronte anche ad una scelta, e quello che ci siamo detti di scegliere era comunque una soluzione per certi versi estrema. Se da una parte può essere quella della trattativa, che noi auspichiamo, perché comunque significherebbe eventualmente raggiungere una soluzione che sia di assegnazione o che sia di affitto, che sia comunque in qualche modo giuridicamente riconoscibile per un collettivo, una realtà politica che per anni ha vissuto solo in spazi occupati. L'altra possibilità che avevamo era quella dello sgombero, che poi, cioè, tutto sommato ancora rimane una possibilità, perché poi in queste situazioni escludere al 100% è sempre difficile. E anche la possibilità, anche nel caso di uno sgombero, ci siamo detti che la situazione avrebbe dovuto cambiare un po' le cose rispetto a quello che è successo a Milano almeno in quest'anno, ma credo di poter parlare almeno anche degli ultimi 10 anni, però quest'anno soprattutto, che abbiamo visto quasi una decina di sgomberi di spazi sociali di diverso tipo e nati in diverse situazioni, in diversi contesti, senza che in realtà, a parte chi occupava, nessuno a Milano ne risentisse particolarmente, perché non c'era mai una risposta abbastanza forte. Sì, diciamo che se la quotidianità e l'ordinarietà di questo anno ha visto appunto che gli spazi autogestiti, che siano essi occupati o no, piuttosto che i luoghi di aggregazione spontanea, comunque subire gli attacchi che questa città porta attraverso appunto la speculazione edilizia, piuttosto che le immobiliari, eccetera, cioè, quello che pensiamo noi è che a questa ordinarietà bisogna dare un segno di disordinarietà che possa portare a una svolta, che possa cambiare un po' le cose, non solo per noi, ma in generale, diciamo, nella città, perché se continua ad andare così, come l'abbiamo visto appunto, che gli spazi, i veri spazi autogestiti, dove veramente si privilegia la relazione invece del profitto, vengono semplicemente attaccati e rimangono problemi di ordine pubblico, noi vogliamo dare un attimo un cambiamento e fare in modo che chi specula su queste cose sia il primo a mettersi, cioè a dover iniziare a pagare veramente queste cose, e a quindi non risolvere un problema tra chi sgombera e chi viene sgomberato, ma fare capire che chi fa del bene a questa città deve poterne parlare e che ne parli tutta la città. Quindi diciamo allargare all'intero fronte cittadino la discussione, no? Esatto. Che poi è il motivo per cui ci sono una serie di incontri pubblici sulla situazione del Bulk. Esatto, il lunedì 19 alle ore 9 di sera c'è una c'è un incontro al Bulk, appunto per parlare un po', sicuramente in specifico della situazione del Bulk, e poi appunto per parlare un po' di quello che sta succedendo in città. Essendo chiaro per noi che nonostante ci sia questa trattativa, che non sappiamo ancora come potrà andare avanti, per noi è importante che tutti, cioè, che tutti capiscano e che tutti comprendano il fatto che per noi, sia che si possa andare a una trattativa con esiti positivi, ossia che invece questa trattativa non abbia esiti positivi, ma si ritorni a parlare di sgombero, come ne abbiamo sempre parlato, diciamo, che tutti abbiano ben presente che un segno di disordine, di discontinuità va dato in entrambi i casi, sia potendo portare un precedente, diciamo, con un discorso di una trattativa, sia portando un precedente con un discorso di uno sgombero che non viene effettuato come li abbiamo visti nell'ultimo anno, negli ultimi anni. E ovviamente la situazione dell'ultimo anno riguarda in generale la repressione che c'è stata, e quindi, cioè, come dire, mi sembra anche logico che si pensi agli arresti che ci sono stati, e che tra l'altro gli arresti, i processi che sono stati nell'ultimo periodo saranno una parte della trasmissione di stasera. Sì, infatti a Milano nell'ultimo anno non abbiamo assistito solo a una decina di sgomberi, ma anche a una serie di arresti. Arresti portati avanti dalla solita famigerata magistratura genovese, che è la magistratura che sta processando alcuni compagni per i fatti di Genova, accusati di devastazione e saccheggio. Nel mese di marzo sono stati arrestati 4 compagni milanesi, accusati di aver allontanato da un treno speciale antifascista 4 nazi skin. Io volevo salutare quindi Milo, Marte, Orlando e in particolar modo Federico, che è ancora rinchiuso a San Vittore. Speriamo che esca il più presto possibile. Bella fede. Il 20 dovrebbe esserci il riesame, speriamo che lo lascino in pace. Ok, riprendo la palla io. Eh sì, basta, stasera abbiamo deciso che parla Ciccio. Così. Mi rendo conto che rispetto al tono iniziale o in generale a quel tono della trasmissione siamo partiti, come dire, un po' più pesante, però in realtà la situazione è quella che è, quindi noi non potevamo esimerci da fare il nostro meglio per comunicarla. Va bene, quindi ringraziamo i compagni del Bulk e mettiamo uno stacco, direi. Bella. I'm a traveler of both time and space. 1:20 a Radio Popolare, Vacio Pai Maus, abbiamo detto grazie ai compagni del Bulk, si sono commossi di questo nostro ringraziamento e hanno deciso che non ci mollano più, sono ancora qui. Rimarremo qui fino a quando è finita la trasmissione, così, no, in realtà noi questa cosa ci fa molto piacere perché siamo molto contenti, parlottando fuori dallo studio. Sì, sì, nel fleet che adesso li cacciamo. Pessimo. Parlottando fuori dallo studio ci stava venendo in mente uno dei ricordi probabilmente più cari che abbiamo del Bulk, che è stato l'Hack Meeting del 99, che è stato il secondo Hack Meeting italiano e che è stato al Bulk di Via Don Sturzo. E, insomma, per noi ha significato parecchio quell'Hack Meeting, perché oltre a essere il momento in cui molti di noi si sono conosciuti e incontrati, cioè, poi è stato anche Odo, ti rendi conto che giorno funesto che è stato? No, zitto, che non ha ancora parlato, zitto, non svegliarmelo. Non svegliare, me lo posso infamare? È lì che sta muto, perché me lo svegli così? Me lo posso infamare prima che prenda il microfono? Assolutamente sì, tanto ce l'ho dietro. In quei giorni sfoggiavo un'imbarazzante maglietta della Microsoft. Ah, è vero. Avevo rimosso. Venduto. Dicevo, dopo l'Hack Meeting c'è stata anche poi la nascita dell'OA e di parecchi anche altri club in giro per l'Italia, per cui è stato un Hack Meeting piuttosto importante il secondo che c'è stato. E insomma, ci piaceva contributo fondamentale. Ci piaceva raccontarlo un po' perché è stato un evento piuttosto particolare, probabilmente sia per noi che ce lo siamo vissuti da carismanettoni, sì, sia da giovani innocenti che arriviamo, vediamo queste persone, diciamo, che cazzo sono, esatto. Intimoriti, no? Che vedevano passare questa massa umana diversa con tutti questi computer sotto braccio e non capivano cosa stesse per succedere lì dentro. Cioè, vabbè, eravate dei mostri, diciamocelo. Ah, così, proprio? Ah, proprio, cioè, proprio violenza. Sì, sì, io dal basso della mia innocenza, della mia incompetenza totale, che cioè, permane tuttora nei confronti degli strumenti tecnologici e dei computer in particolare, diciamo che, insomma, cioè, eravate dei mostri, ecco. Parli bene. Non so, ragazzi, d'altra parte uno studia per questo, mi hanno fatto studiare per questo, insomma, dai, io non so... E non ammetteranno mai di aver buttato via dei soldi, diciamocelo. Mai, assolutamente. No, in realtà durante tutti i 3 giorni dell'Hack Meeting io mi ricordo degli ambienti enormi popolati di gente che era attaccata 24 ore al giorno sulle macchine. E in realtà quella era l'immagine che avevo avuto del Bulk arrivando, perché tutti gli spazi erano stati praticamente adibiti o a LAN space o a sale per i seminari o una fighissima installazione di videogiochi al piano terra. E noi del Bulk non capivamo che cosa facevate. Cosa voi? Voglio da noi questi? Aiuto, mandateli via! Poi avete scoperto che nessuno di noi sapeva usare il computer. Però, videogiochi sì, però. Ecco, l'installazione di videogiochi invece l'avevate apprezzata. Io mi ricordo che c'era anche un ciccione tedesco guru dei computer, che adesso non mi ricordo come si chiamava, però era uno... Come si chiamava, Emi? Non mi ricordo come si chiamava, mi ricordo che era ciccione, che aveva la barba e che era tedesco e che tutti quanti lo veneravano quando passava, sembrava un pezzente e invece era uno che ne sapeva una cifra. Adesso c'è l'altarino con le candeline perché è passato... Ma è vivo ancora, no. Sì. Stiamo cercando di comunicarti che non è più vivo. No. Esatto. Bella che si fa il cadavere di Bob Holland. Però è rimasto nelle nostre tribute, nei nostri cuori, nostre... Ma di che cosa è morto? Tristezza. Vabbè, si muore poi. Dopo un po' si muore, va così. Ma non era vecchissimo. Ha 54 anni, guarda, mio padre ne ha 64. Sì, vabbè, insomma. Ma non è che è fuori media. Cioè, spero non stia ascoltando la radio, perché... Esatto. Ciao, papà. Dai, io la trasmissione va avanti. Sì, in effetti lo spettacolo continua, tutte queste cose. Anche la vita. Qua degli altri, però. Quasi per tutti. Facciamo lo spot. Sì, fate lo spot e poi andatevene via. Perché allora, intanto, per tutti quelli che sono in macchina in questo momento e che si stanno muovendo per la città di Milano, al Bulk c'è una serata fighissima di dancehall. Non è fighissima? Sì. È fighissima. Certo. Di più. C'è una serata di dancehall fighissima, c'è addirittura Boon degli Africa United, dopo il Berra vi dice bene Alberto. Vi dice bene che chi suona stasera. L'espressione di Alberto era impagabile. Assolutamente. Naturalmente ci sarà il B-Team. La cosa che volevo dire io era... Innanzitutto l'importanza di partecipare lunedì prossimo a questa assemblea alle 9 al Bulk di sera. Ecco, allora se è importante partecipare all'assemblea ci dici dov'è il Bulk? Allora, il bulk è in il bulk è un quadrilatero, è un isolato. No, smetti, Adamo ed Eva. È un poligono. Esatto. Piazza Cimitero Monumentale. Ecco. E dove c'è Manzoni? La fabbrica del vapore. Dove c'è la fabbrica del vapore? Il futuro parcheggio. Ma mi sa che la gente conosce meglio il Cimitero Monumentale. Allora, comunque, Cimitero Monumentale, Piazza Cimitero Monumentale, alle 9. Cerchiamo di parlare di discontinuità, cerchiamo di non parlare soltanto della pratica bulk, dello sgombero, ma cerchiamo di costruire qualcosa per la città, magari da poter portare avanti anche a settembre con una campagna, con dei discorsi che vogliono mettere fine agli sgomberi che Milano ha subito, come abbiamo detto, in tutti questi anni, non soltanto nell'ultimo anno. L'ultimo anno è stato un anno dove forse si sono accaniti un po' di più, però è ora di basta, è ora di cambiare direzione, per cui discutiamone insieme. Ripeto, non è una questione soltanto del bulk, ma è una questione di tutta la metropoli. Lunedì 19 alle 9 di sera. E oltre a invitare tutti lunedì 19, invitiamo tutti, oltre appunto questa sera che ci sono DJ Boon e DJ Kato degli Africa Unite a mettere i dischi, reggae, rocksteady. Ricordiamo che domani c'è una 12 ore di musica, immagini, arte e quant'altro al bulk, che forse sarà l'ultima serata che ci sarà in questo bulk di Piazzale Cimitero Monumentale. E domani ci sarà un po' di tutto, ci sarà drum and bass, jungle, techno, breakbeat dalle 11 di domani sera. Con il B-Team, i No More Dogs. Diciamolo che chiudiamo anche alle 12 di dopo da domani. Mezzanotte a mezzogiorno, esatto. Funziona così. B-Team, poi vediamo, No More Dogs, se ce n'è. Poi chi regge, regge. E chi non ha la fibra. Aspetta, ripetili bene. Esatto, perché ma d'altra parte è la legge della giungla. Ripeti bene chi suona domani sera. Che vabbè, perché B-Team. B-Team, No More Dogs. Che siamo noi. C'era il trucco. Tanti altri amici. Pubblicità occulta. Metteranno i video Abominevole, 2501, Madu, Lab 9, tanti altri amici. Ci sarà anche una sala reggae dub con King David Warriors, Newchin, DJ Fade da Bombo Clat Crew. Spacchiamo. Invitiamo tutti a venire appunto sia domani sera che lunedì al Bulk. Vabbè. Con la Betty nel cuore sempre. Esatto. Bella. Venite a salutare il Bulk. Should I fall out of love, my fall in the light? To change. side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, yeah. Begging, darling, please, yeah. Darling, don't you lose my mind. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love. Hanging, darling, please, lay down. Make the best of the situation. For I finally go insane. Please don't say we'll never find the grave. Tell me all my love today. Hey, love, got me on. Radio Popolare, Voce a Pai Mouse. Naturalmente avevamo deciso che a noi ci piaceva l'idea di fare la rubrica, ve l'avevamo già detto l'altra volta, e quindi sia mai come che manchiamo un rubricomane, proprio non ce n'è. E quindi beccatevi la rubrica. Felici di ritrovarvi in questo cruciale appuntamento con le stelle. Se avrete la pazienza di seguirci, scoprirete ancora una volta preziose informazioni che non vi salveranno la pelle, non vi permetteranno di evitare le rogne, né vi risolveranno le situazioni drammatiche. Ma almeno avrete il tempo di scegliere le scarpe giuste. Andiamo a incominciare. Ariete. Una nota compagnia straniera brevetterà quel disegno futuristico che portate tatuato sul braccio da anni. Avete due scelte, potete consegnare il pezzo di pelle con le buone o abituarvi a pagare le royalties col bollettino prestampato che, in barba alla legge 675, vi è appena arrivato in casella. Mannaggia ai telefonini che fanno le foto, ai satelliti e alle vacanze in costume. Il sole consiglia magliette a maniche lunghe, evita scottature e noie in genere. Toro. Conquistati da un nuovo accordo commerciale fra Microsoft e una nota casa automobilistica, vi deciderete ad acquistare una nuova vettura dotata di un completo personal computer a bordo. Congratulazioni! Solo una domanda. L'avete fatto per guardare i film quando siete in panne nella corsia di emergenza o per portare più facilmente il PC al centro assistenza? La Luna consiglia, meglio una bicicletta con dinamo, non tradisce. Gemelli. Mese di incontri per i gemelli. Una fortuita ricerca su Google vi rivela l'esistenza di un vostro omonimo del quale non avevate mai sentito parlare prima, nonostante risieda nella vostra via e abbia un conto presso la vostra stessa filiale. Saturno consiglia: date un po' un occhio dentro i portafogli, la visa è ancora al suo posto? Cancro: partirete per quella agognata traversata in barca a vela che avete tanto desiderato. Per rimanere in contatto con la civiltà conosciuta, acquisterete un avveniristico telefono satellitare modello Soldini, con un'antenna grossa come un pesce palla. Alla prima telefonata avvertirete un lieve fastidio, alla seconda una palpitazione scomposta, alla terza schiumerete riversi fissando ad occhi sbarrati il sole di mezzogiorno mentre la barca ruota vorticosamente attorno a voi. La luna consiglia: lasciate perdere le coccinelle a batti radiazioni, non basterebbe nemmeno un fenicottero. Ma voi non ci ascoltate mai, vero cancri? Leone: un documento scaduto potrebbe ritardare il vostro viaggio alle Bahamas. Sarà sufficiente rinnovarlo per tempo. Le nuove leggi richiedono tuttavia un corredo di dati biometrici. Niente paura, nessuno vi staccherà un orecchio, si tratta solo di foto e alcuni numeri. Finalmente in regola per partire, al check-in noterete un ragazzone biondo con un'espressione da SS che sfoggia un passaporto ricoperto in pelle con il tatuaggio di vostro cugino. Ma che strano, penserete, gli facevo le foto solo quest'estate. Il sole consiglia: evitate di parlare con vostro cugino. Vergine: 20 anni di informatica cominciano a farsi sentire, soprattutto nella vostra vita sociale. Fortunatamente la tecnologia ripara i danni fatti offrendovi le chat erotiche. Vi collegherete ad un canale dal nome solleticante e comincerete a fare la conoscenza di una provocante bionda dalle misure esagerate. Dopo pochi minuti il vostro campanello trillerà selvaggiamente. Venere consiglia: siate gentili con la guardia di finanza e cercatevi una ragazza una volta per tutte. Bilancia: troverete una testa di cavallo sulla scrivania. Riflettete per un attimo se avete fatto uno sgarro a qualcuno, ma no, sarà il solito pazzo, vi dite. Prendete la 24 ore e sgusciate fuori dall'ufficio in direzione della sede centrale di Netscape. Urano consiglia: quel vostro ambizioso progetto lasciate stare, alcune cose valgono di più. Scorpione: mese intenso per gli scorpioni, un'ondata di contatti telefonici è in arrivo. Vi chiameranno a casa per proporvi la vendita di una cassa di vino, poi di un tappeto, poi di un asciugacapelli, poi di un'assicurazione, poi per invitarvi a votare, poi per ringraziarvi di aver votato, poi per sapere se avevano già chiamato per dirvi di votare. Vi sorprenderete di quante persone conosciate, nessuna di quelle che vi ha chiamato. Marte suggerisce: non rifugiatevi dietro la legge sulla privacy, la verità è che non avete amici. Sagittario: grande momento di sviluppo artistico per i sagittari. La vostra passione per la musica trova nuovo nutrimento nella possibilità offerta dal file sharing. Poter scaricare di tutto, da Sinatra ai Pantera, allargherà i vostri orizzonti facendovi conoscere situazioni nuove, stimoli nuovi, persone nuove. Il vostro sogno si coronerà con una iscrizione coatta ad un conservatorio circondariale del quale onestamente non avevate mai sentito parlare. Peccato che le sessioni di prova vi lascino solamente un'ora di aria al giorno. Urano vi avverte: sentirete come cambia la musica lì dentro. Capricorno: affascinanti prospettive economiche per la vostra nuova azienda del terzo settore. La vostra divisione ricerca e sviluppo inventa un sistema per far comunicare telefonino, palmare e lettore MP3 attraverso il sistema nervoso umano. 2 giorni prima di ottenere il brevetto, scoprite nel laboratorio i resti del vostro ingegnere capo, usato come ponte salino fra una lavatrice e il quadro elettrico. Mercurio suggerisce: imparate a distinguere fra un esperimento azzardato e un'intimidazione. Avvisati? Acquario: mese difficile per gli acquari, soprattutto se, prima di partire, affidate il vostro con quegli splendidi pesci tropicali a quel nuovo sistema di domotica integrata. Saprete in tempo reale, dal vostro telefono cellulare, che il filtro si è intasato e che i vostri pesci oramai galleggiano a pancia in su, mentre l'acqua fangosa tracima sul tappeto persiano. Saturno suggerisce: meglio lasciar fare la portiera e senza lasciarle il numero. E infine i pesci. La luna in Nettuno porta un mare di guai giudiziari. Se siete passati sulla costa ligure 3 anni fa, riguardate le foto delle vacanze. Non sempre i ricordi sono solo personali, soprattutto se una copia dei negativi viene portata come prova a carico. Giove consiglia: evitare i cattivi ricordi non sempre è una soluzione, soprattutto se sono altri a ricordare per voi. Grazie per la vostra preziosa attenzione e ricordate, le stelle sono il vostro motore di ricerca per il futuro. Buonanotte. Bye. tonight. You must take the long way home. Una e 52 Radio Popolare va a Ciappai Mouse. No, volevo dirlo io. Arrivi sempre dopo, arrivi sempre dopo. Allora, abbiamo un'altra cosa, no, di cui parlare. Ho capito dall'ultimo segno che c'era una cosa, esatto, un po', che così che volevamo dire. L'ultimo segno, per i più attenti, era indicativo. Nel senso che l'accenno alla Costa Ligure di 3 anni fa è chiaramente un riferimento a Genova e al G8. Ora, a 3 anni di distanza da quella che è stata la mattanza di Genova, almeno così è stata per chi se l'è vissuta stando lì, sono scattate le procedure, come dire, le indagini e i rinvii a giudizio. Ci sono, credo, 400 persone coinvolte in tutto, ma nel frattempo i primi 25 stanno già subendo dei passaggi in tribunale, adesso non mi viene il termine tecnico, però c'è quindi questa situazione. Si è costituito un gruppo di supporto legale e un gruppo di supporto legale, scusate il gioco di parole. In sostanza si tratta di un tot di persone che stanno lavorando per sistemare e organizzare tutto il materiale video e audio che c'è e che è relativo a Genova. Noi adesso abbiamo, se non sbaglio, in linea una persona. Pronto, persona in linea, ci sei? Sì, ci sono. Ah, okay. Meraviglia. Ah, sì, detto, molto meraviglia meglio, della però, scienza e della tecnica, scusa. Adesso vi sento. Adesso ci senti? Oh, io vorrei che tutto quello che avete detto, che sicuramente so l'argomento, fosse veramente così lontano da noi, ma non è così, quindi adesso proviamo a riportarlo sulla realtà. Ok. Stavamo dicendo che quindi si è costituito questo gruppo di lavoro a Genova, che è un supporto al supporto legale relativo alle indagini. Tu sei uomo, sì, nero, giusto? Esatto, sono uomo nero. Ok, sei uomo nero, sei stai lavorando con questo gruppo e sai più o meno qual è la situazione, quindi magari sei... Sì, adesso provo a illuminarvi un po', provo a illuminare questa notte milanese. Sì, sono qua a Genova ormai da quasi un mese, non da solo, e la prima cosa che ci tengo a sottolineare è che questo gruppo di supporto legale non è solo qui a Genova, ma per fortuna è in tutta Italia. E non solo, c'è molta gente che sta collaborando e noi siamo l'elemento più evidente perché si è trasferito realmente nei vicoli genovesi, però per fortuna ci sono moltissimi collaboratori. La situazione purtroppo è calda, o come dicono i miei amici marsigliesi è tacchentissima, ovvero è molto calda. Siamo nel clou dei processi, per i 25 attiviste, tra attiviste e attivisti accusati di devastazione e saccheggio gli avvenimenti durante le giornate del G8 di 3 anni fa, ma siamo anche all'inizio dell'altro importante processo che ha portato in aula i 29 poliziotti accusati dell'assalto alla Diaz, dei pestaggi e degli arresti illegali. Il nostro gruppo di supporto legale non fa altro che sostenere il lavoro volontario, il lavoro non retribuito di moltissimi avvocati che stanno difendendo non solo queste 25 persone accusate di devastazione e saccheggio, ma moltissime altre, perché i processi sono vari, si parla di oltre 100 procedimenti anche contro singole persone e si parla purtroppo anche di un altro grosso procedimento che dovrebbe partire da qui a non molto tempo, che coinvolgerà oltre 50 persone, sempre per i fatti di quelle giornate lì. Io volevo che tu spiegassi a noi, ma a tutti quelli che ci stanno ascoltando, qual è il tipo di attività che state facendo giù a Genova e perché è importante che ci sia questo tipo di lavoro in questo momento. Posso farlo subito con un esempio. Il primo esempio è questo caso eclatante, ovvero il fatto che le 25 persone siano fondamentalmente accusate di devastazione e saccheggio attraverso una ricostruzione fatta sostanzialmente da quello che io definisco un artista, questo vigile urbano Corda, che attraverso il montaggio proprio da regista, da artista, di moltissime immagini che gli sono pervenute dalle forze dell'ordine, dai sequestri e da anonimi che hanno consegnato alla polizia video, ha tentato di dare un'immagine delle giornate di Genova appunto secondo questo criterio di lettura, che è il reato di devastazione e saccheggio. Che spiego con due parole cos'è: devastazione e saccheggio sono nient'altro che l'aggravante di danneggiamento e furto in un contesto che è di ordine pubblico incontrollabile, ovvero se tu danneggi qualcosa normalmente risulta un danneggio, ma se lo Stato ha deciso che in quel momento c'era un ordine pubblico fuori dal controllo delle forze dell'ordine, questo si trasforma in devastazione, idem per il furto che si trasforma in saccheggio. Niente di più, la differenza è che tra un reato di danneggiamento e di furto, parliamo di reati che contano un anno, invece un anno, due anni di pena, invece per devastazione e saccheggio parliamo di minimo 8 anni di galera fino ai 15. Quindi un reato che in Italia è stato contestato solo 3 volte nel corso degli ultimi 50 anni di storia, ed è stato contestato a dei gruppi di ultras 2 volte ed è stato contestato in merito alla grossa manifestazione di Torino in ricordo di Sole Baleno nel 1998, morti, suicidi, sempre per un'inchiesta giudiziaria ai danni di occupanti di case. Quindi è una situazione del tutto particolare. Il nostro lavoro è stato quello di, in questo momento, tentare di ricostruire e invalidare il costrutto dell'accusa, ovvero dire che il lavoro che è stato fatto è sostanzialmente falso, è il lavoro di un artista più che di una ricostruzione reale dei fatti, che non si è trattata di devastazione e saccheggio, che le prove che sono state portate non sono realmente delle prove, ma non sono originali quelli con cui ha avuto a che fare. Un'opera di reale smontaggio del lavoro della procura a carico dei 25. Questa è una parte di lavoro e serve come primo esempio. L'altro di sostegno vero e proprio, archiviazione dati, informatizzazione dati, a sostegno di quella segreteria legale che per fortuna già da 3 anni lavora, che non si è mai fermata e che adesso noi andiamo a sostenere. Non è nata oggi con l'arrivo di Indimedia a Genova, ma già viveva e noi diamo solamente un apporto, speriamo sostanziale e utile, al lavoro degli avvocati, al lavoro della segreteria legale che era già attiva. Ecco, ma quindi da quello che ci racconti, Uomo Nero, ci sono due fronti che in realtà voi state cercando di tamponare, diciamo. Da un lato c'è quello dei carichi ai singoli e quindi delle imputazioni. Dall'altro lato c'è, e anche questo è molto importante da sottolineare, rischia di passare in secondo piano, c'è quella che è la conseguenza di ricostruzione storica e quindi anche di diciamo interpretazione politica che si può dare alle giornate del G8, ovvero sia che facendo anche degli artefatti, quindi questo montaggio per esempio, si sta cercando di dare una lettura di quelle giornate in cui tutta la responsabilità viene, ovviamente non ci si può aspettare nulla di diverso da loro, viene addossata ai manifestanti, e quindi la lettura che si dà dell'azione delle forze dell'ordine è stata quella di una reazione che non poteva essere altrimenti. Sì, noi pensiamo sostanzialmente, di questo siamo tutti abbastanza convinti, che non occorrerà una rilettura politica dei fatti. Noi, prima di tutto, noi siamo qui per tentare di riportare a uno stato di normalità, cioè di lettura semplice dei fatti, di smontare un montato. Quindi di ritornare alla base di quegli avvenimenti, senza stare a sindacare tra buoni e cattivi, chi è più o meno colpevole, non vogliamo di colpevoli, noi vogliamo portare a casa la gente, noi vogliamo portare a casa i 25 manifestanti che adesso vengono processati. Il nostro è realmente, come non si vedeva da tempo, un lavoro di supporto legale e di soccorso legale a queste persone. Secondo noi il lavoro che ne uscirà alla fine di tutto sarà anche di ricostruzione storica di ciò che probabilmente è realmente accaduto a Genova. Secondo molti, probabilmente la maggior parte di quelli che stanno tentando di portare a termine questo lavoro, c'è stata una prova di gestione di guerra, di una sorta di guerra civile a Genova, c'è stata una prova da parte delle forze dell'ordine di gestire una sorta di insurrezione. In questo modo adesso si prova anche a colpevolizzare con dei reati che sono reati che si contestano solo in situazioni di guerra e di rivolta generalizzata. Crediamo che quella della ricostruzione storica, di interpretazione di ognuno, sarà una conseguenza del lavoro che stiamo portando a termine, ma sottolineiamo, e continuo a sottolinearlo, non solo io, che noi vogliamo prima di tutto portare a casa tutti quanti sani e salvi e senza che qualcuno paghi il conto per 300.000 persone che c'erano a Genova, o che comunque paghi un conto con confronti di questo Stato che comunque ci ha portato e continua a portarci solo repressione tutti i giorni. Questo è il nostro primo mandato e lo sentiamo dentro lo stomaco e su questo lavoriamo ogni mattina. Certo, sicuramente ed è già un onere piuttosto grosso quello che state affrontando. Sì. Io volevo fare una domanda, volevo sapere quante persone erano impegnate più o meno nel progetto, quanti siete, perché immagino che comunque per quanto su base volontaria sia un lavoro pesante, cioè nel senso quanto materiale c'è da visionare. Allora, quante persone? Stiamo parlando di un'equipe di lavoro che si aggira tutti i giorni intorno alle 10 persone. Attive appunto tra le 18 e le 20 ore al giorno, senza esitarci e senza cosa, però lavoriamo a questi ritmi qua ed è il fatto positivo. Mi tocca sottolineare che probabilmente dovevamo darci tutti quanti una sveglia prima e non arrivare all'ultimo momento, ma l'importante è che adesso si sia cominciato questo lavoro. L'elaborazione del lutto. Sì. Boh, adesso l'abbiamo elaborato e ci mettiamo sotto e vediamo di fare quello che c'è da fare. Dall'altra parte il lavoro è sostanzialmente immenso, vi do solo un numero, soprattutto stiamo parlando per un procedimento, una media di una settantina di faldoni che corrispondono a oltre 15.000 copie di cartaceo. Stiamo parlando di oltre 45.000 fotogrammi da visionare, stiamo parlando di migliaia di ore di girato da encodare, cioè da dargli tempi, da verificare, da vedere i tagli, non tagli, le verifiche degli originali, cioè stiamo parlando veramente di mesi di lavoro, se non anni. È tutto lavoro volontario sostanzialmente? Sostanzialmente sì, ci sono quello per quanto riguarda il lavoro di Indie Media, visto che è una cosa pubblica, una cosa che noi ci rivendichiamo proprio come Indie Media, c'è un rimborso delle spese per chi ha deciso di trasferirsi qui perché ha lasciato baracca e burattini e crediamo, certo, abbiamo creduto tutti che fosse legittimo almeno non fargli accollare anche le spese di questo trasferimento, e poi ci sono delle persone che sostanzialmente anche loro prendono un rimborso spese, ma nulla che va a vedere con stipendi che facciano arricchire qualcuno, gente che è rimborsata per 4 ore al giorno, che lavora con noi per 15-16 ore tutti i giorni, e non dico una missione, è sentirsi dentro anche una sorta di responsabilità politica, di voglia di appunto in questo caso di portare a casa la libertà di qualcuno, e speriamo in qualche modo di riuscirci. Ecco, come si può fare per collaborare a questo progetto? Avete bisogno di, non so, materiale, di soldi, di persone? Ci sono dei... Allora, la prima cosa fondamentale è abbiamo bisogno che la gente sia informata. Quindi sembrerà strano, ma noi abbiamo messo al primo punto la diffusione dell'informazione, perché avere gli occhi addosso solamente delle forze dell'ordine dello Stato è una cosa che non può andare e che non porta a niente di buono. Più gira l'informazione rispetto a questi processi, più il lavoro diventa sereno e più può portare dei risultati positivi. L'altra cosa è sicuramente abbiamo bisogno di soldi per fare il lavoro di archiviazione dati, di informatizzazione dell'archivio a disposizione degli avvocati. Per tutto questo c'è bisogno di molti soldi e c'è a disposizione il conto corrente postale, che era già il conto corrente postale del GLF, cioè il General Legal Forum, subito dopo le manifestazioni del G8, e Indie Media ha scelto come punto di riferimento per la raccolta, per la campagna di raccolta di finanziamenti, e su quello chiediamo appunto che vengano versate. Pensiamo solo che se ci fossero veramente un euro per 300.000 persone che si stima abbiano partecipato alle manifestazioni di Genova del 2001, probabilmente molti problemi oggi non ci sarebbero, sarebbero affrontati comunque in un modo più sereno e differente. Ecco, tu ci puoi dare gli estremi del conto e magari dei link, qualcosa che permetta a chi magari in questo momento non è davanti a un computer o non ha... Allora, sì, un conto soprattutto, un conto, se c'è, sì, soprattutto un conto. Sì, sono alle prese con le mie carte e sto cercando il numero del conto, okay, di Don Balletti. Allora, dove... aspettiamo fiduciosi. Ti do respiro io. Allora, i riferimenti, i link sono, per cercare qualsiasi informazione, il sito è quello di Indie Media Italia, ovvero Italy. www.endimedia.org come punto di riferimento generale. Invece, per quanto riguarda l'inchiesta, la controinchiesta su Genova, a questo link che vi ho dato aggiungete uno slash finale e controinchiesta.php. Per quanto riguarda invece il conto corrente postale, dove chiediamo di fare i vostri versamenti, darci il vostro aiuto, il conto è intestato a Don Antonio Balletto. È un conto corrente postale, quindi? No, un conto corrente bancario. Ah, ok. No, sono io che sono un po' tardi. Quindi? Allora, conto corrente bancario intestato a Don Antonio Balletto. Belletto? Balletto. Balletto. Esatto, Balletto. La banca è la Carige. Sì. E il numero di conto è il 61 sì. 35 980. Hai un numero di agenzia della Carige? Vi do il codice ABI. Perfetto. 6175. 6175. E vi do anche il codice CAB. Ma bravo. È 1400. Allora, io ti ripeto tutto. Allora, dimmi. Il conto è il conto corrente 6135980 presso esatto. Carige, esatto. Intestato a Don Antonio Balletto, ABI sì. 6175, CAB 1400. Perfetto. E invitiamo tutti anche noi a contribuire a questo. Posso specificare una causale per il versamento? La causale è meglio perché appunto il riferimento è campagna internazionale per Indimedia, sottoscrizione Indimedia, perché appunto è stata lanciata questa nuova campagna alla fine di maggio e teniamo i riferimenti e finiscono secondo causale in questo conto, ma non vanno persi. Posso fare una domanda curiosa? Certo. Perché è intestata un don? Perché questo Don Antonio Balletto ha dato la disponibilità all'epoca nel 2001, l'ha confermato ancora oggi, di essere figura neutrale rispetto a tutti quanti gli avvocati e probabilmente, ci tocca dire, anche figura neutrale molto poco diciamo toccabile da parte dello Stato certo. Nei confronti certo. Non voleva essere provocatoria, era no, una no, domanda curiosa. È una giusta domanda curiosa che ci viene fatta molto spesso, che è stata fatta molto spesso anche al Genoa Legal Forum ed è purtroppo così, ma anche per fortuna dobbiamo ringraziare Balletto per questa sua disponibilità certo. Perché ormai da 3 anni ha dato appunto la disponibilità a raccogliere questi soldi e a il nome sostanzialmente certo. Per raccogliere questi soldi. E, niente, la causale appunto ve l'ho detta e noi lo ripeteremo comunque. Ricordiamoci appunto l'informazione prima di tutto, è la parte più importante di tutto il lavoro che stiamo facendo. Certo. Ok, grazie mille Uomo Nero. Grazie a voi, un bacione e buonanotte. E buon lavoro soprattutto. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Bene, io per chiudere questo punto su Genova volevo dire che l'organizzazione per la raccolta fondi passa anche per tutta una serie di banchetti che si trovano, purtroppo non ci sono indicazioni precise, si trovano certo. Sparsi di dove le persone si auto-organizzano e riescono a fare delle sottoscrizioni, che è possibile sottoscrivere acquistando un video che è stato proposto da Indimedia sui fatti di Genova, che si chiama Niente da archiviare, e che ci sono una serie di contributi che stanno venendo spontaneamente, tra cui sottolineo l'ultimo in ordine di tempo, che è un fumetto. Addirittura un fumetto? Sì, di 8 pagine, credo, che è stato pubblicato online, vi do il link. Il link è Garage Comics, scritto garagecomics.altervista.org/genovacomics.html. Allora ripetiamolo magari. Ok. garagecomics.altervista.org/genovacomics.html. E riportando il discorso su Niente da archiviare, vi vorrei far sentire i primi, credo, 10-15 secondi dell'audio di questo filmato, che secondo me sono emblematici del lavoro che si sta facendo a Genova. Il giudice dottoressa Elena D'Aloiso, Letta la richiesta di archiviazione depositata dal PM nel procedimento in intestazione nei confronti di Placanica Mario e Cavataio Filippo. Letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato dai difensori delle persone offese, dichiara infondata l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero. Emblematico perché secondo me rende bene quello che è stato un tentativo di mistificazione della realtà che c'è stato fin dall'inizio e che in questo momento sta coinvolgendo a posteriori una ricostruzione di Genova che mi sembra, come dire, viziata fin dall'origine e quindi parziale e ingiusta. Io prima di fare una pausa ripeterei gli estremi del conto corrente, sì. Ripeterei anche l'indirizzo che prima ha dato Ciccio. Allora, per chi vuole fare versamenti, il conto corrente di riferimento è il conto corrente 61 35 980 intestato a Don Antonio Balletto presso Carige AB 6175 CAB 1400, causale sottoscrizione in dimedia, e noi invitiamo tutti anche un euro, come diceva Uomo Nero, esatto. Prima un euro per ogni persona che c'era sarebbe già molto. Invece per quanto riguarda i link, si può seguire la situazione su italy.indimedia.org per chi è interessato a dare un'occhiata al fumetto che c'è stato, che verrà stampato per aiutare le sottoscrizioni. Il sito è garagecomics.altervista.org/genovacomics.html. Allora, sono le 2:14, questa è Radio Popolare, Vacia Pay Mouse, diciamo che facciamo uno stacco. Stacchetto. belle, che ha l'amore per la natura, l'amore, canto in luce stilo, sin stintilita, di belle, ho mucha stile, ho mucha stile, ho mucha stile, ho mucha stile, ho mucha stile, ho mucha stile. Radio Popolare 221, Voce Pai Mouse. Abbiamo parlato di... Io ripetere, posso ripetere il numero di conto? Ma così, ripetiamo il numero di conto. Allora, chi volesse contribuire al lavoro che si sta facendo su Genova 2001 può fare un versamento sul conto corrente numero 61 35 980 presso la Carige. Quindi è la Cassa di Risparmio di Genova, il conto è intestato a Don Antonio Balletto, l'ABI è 6175, CAB 1400, causale sottoscrizione Indimedia. Noi ci teniamo molto a questa cosa e speriamo di non essere i soli a tenerci, per questo che continuiamo a ripetere in modo così ossessivo questo numero di conto, ma speriamo di non essere un'ossessione, ma semplicemente così, la voglia che le cose escano come sono, tutto sommato. E ahimè, per far uscire le cose c'è bisogno anche di soldi, perché altrimenti senza non si va lontano, purtroppo. Va bene, cambiamo argomento. Ma cos'è il nostro amico Urbani? Cosa ci dice di bello stasera il nostro esperto dell'amico Urbani? Per introdurre Urbani, parliamo prima di un paio di facezie, giusto così per alleggerire l'ambiente, tutto quanto. E per introdurre anche l'argomento copyright, diritti, eccetera, e cose di questo genere. Le prime due facette sono due articoli buffi, più che altro due cose da segnalare, abbastanza divertenti. Le prime due riguardano entrambe casa Microsoft. Oh! È il nostro miglior amico. Che notizia commovente qua. E il signor Bill Gates, padrone della Microsoft, ha appena dichiarato che secondo lui CD e DVD hanno vita molto breve e non dureranno nulla. Cosa si è inventato di nuovo stavolta? Ma lui, secondo lui fra poco verranno sostituiti da questa televisione interattiva che ci propinerà tutti i programmi che noi vogliamo vedere, perché in verità lei sa cosa noi vogliamo vedere, perché lei evidentemente ci conosce meglio di noi, e una roba fatta così. Noi ben conosciamo il valore delle profezie del Signore. Infatti le profezie del Signore sono tipo Internet, ma Internet non prenderà mai piede. Questa è una profezia del signor Microsoft. Oppure, ma 640 kilobyte di memoria avanzano, cioè non ce ne sarà mai più bisogno di più di 640 kilobyte di memoria. Faccio notare che adesso un computer che ne esce con 256... 256 megabyte è già ridicolo di memoria. Vabbè, questo rientra nelle bufale famose. Ci fu anche qualcuno che disse una volta che ascoltando un disco dei Beatles che loro mai sarebbero diventati un gruppo noto. Ah sì, tra parentesi. E cose di questo genere. E queste erano una delle due cose divertenti della Microsoft. L'altra, un po' meno divertenti, soprattutto se usate certi loro prodotti, è un nuovo advisory, che in italiano si dice... Stata corte. Saperlo. Stata corte. Saperlo, in italiano si dice, saperlo. Ecco. Vero che è stata scoperta una nuova vulnerabilità sui prodotti Microsoft, in particolare su Outlook, e può causare i soliti problemini di... Mal di gola. Gente cattiva che arriva e ti fa i danni sul computer perché tu hai i problemi. Ah, il mal di gola dici anche? Sì, anche. Più che altro il mal di fegato ti viene perché ci succede. Questo è già più preoccupante. Fonti, ovviamente. Leggo le cose che non avrei dovuto leggere. Il gobbo. C'è il gobbo. Ebbene sì, abbiamo il gobbo. E sono una bestia, lo leggo proprio così, no? Allora, questa è la prima bufala, quella del DVD, eccetera, eccetera, si trovano sui siti di informazione informatica, quindi punto informatico, www.meno.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.punto.pun appunto il puntino con il rotondo, carattere, poi punto più NTO meno trattino informatico punto ancora puntino IT. Infamia chiamare un sito così. Vabbè. È perché volevano vedere come te la sgamavi. Fatta apposta. Guarda, un complotto internazionale. Oppure Zeus News, www.zeusnews.it o.com. Mi sembra ci sia anche .it. Vabbè, comunque all'inter, se non va una l'altra, non è un problema. E questa è la prima. In verità forse c'è anche la seconda. Comunque la seconda, quella della vulnerabilità, il sito più accreditato per queste cose è il CERT, che è il CERT.org. www.cert.org. Beh, anche il nome, direi che è una certezza, è una roba che si chiama così per definizione. No, abbiamo la regia oggi. Strano, c'è cioè, questa voce che si infila. No, una delle cose stranissime, ad esempio, è il caso che il CERT, che è il gruppo di emergenza informatica, per la prima volta nella sua storia ha detto non usate i prodotti di questa azienda, che è una cosa abbastanza inquietante, soprattutto perché avendo le spalle, avendo relazioni anche in parte economiche con tutti, cercano di tenere i piedi in tutte le scarpe. Il fatto di dover esporre leggi... suggerire di non utilizzare i prodotti di un'azienda, insomma, fa abbastanza strano. E questo in effetti ha costretto Microsoft a dire scusate, in effetti Explorer c'ha un po' di buchi, ma li tapperemo. Sì, anche un altro recente che permette a qualsiasi creatore di qualche sito di eseguire quello che vuole sul tuo computer. Ah, la stream. Esatto. Vabbè, sul tecnico peso. Comunque, fatto sta che c'è questo piccolo bacchettino dentro Explorer, immagino, Windows Internet in generale, Explorer, tanto ormai fanno parte uno dell'altro. Sì. Che permette a chi ha fatto un sito, ovviamente con codice malizioso. Malizioso? Già sentita questa, sono sicura. L'utente arbitrario esegue il codice malizioso. No, era al contrario. Bravo, era al contrario. È l'utente malizioso che esegue il codice arbitrario. Sì, sì. Comunque, permette di far sì che tu vai a vedere ignaro questo sito, ignara questo sito. Ignaro? Quale sito? Cioè, insomma. Ma sì, saranno i siti quelli ultra cattivi, veri terrorist, che quindi te lo meriti, no? Che muori. E ovviamente questa cosa qua ti fa le peggio cose sul computer. In verità, tipo sito, immagino... No, ti permette di eseguire tipo qualunque programma sul computer. Ma la cosa più incredibile è come è stato corretto. La correzione è praticamente... si scarica il service pack, insomma, però quello che succede è che questa funzione viene sradicata, questa funzionalità, perché è stata aggiunta come una funzionalità, permette di vedere delle estensioni di un sito, è stata sradicata completamente e sostituita con il nulla, in attesa di una riparazione migliore. Quale funzionalità? Quella della Do Stream. Non c'è mai stata questa funzionalità. Cosa dici? Ebbene, poi adesso introducendo l'argomento copyright, diritti in rete, eccetera, ci sono giusto due notiziole carine prima di reintrodurre il decreto Urbani, che purtroppo è diventato legge dello Stato, non è più decreto. Ma non c'era mica lo terremo fino alla morte. Sì, poi appunto dopo intervisteremo anche questa persona. La prima di questi argomenti sul copyright è una petizione scritta, firmata da 60 artisti. Daniele ci illustrerà. Daniele ti sta guardando con uno sguardo interrogativo con la metà basta. Più che illustrarli, noi li leggeremo. C'eravamo d'accordo prima, questa è la cosa che... questo non bisogna dirlo. Funerario. Nel senso che ci pare giusto che abbiano il merito che meritano. Il momento di gloria. Il momento di gloria loro. Dunque leggo gli artisti firmatari di una petizione degli artisti per la creatività nell'era digitale. Credo si commenti da sola, in quanto dice sì alla musica legale su internet, no al furto della musica, sì alla copia personale, no alla pirateria personale, sì noi artisti musicali e autori desideriamo che il nostro pubblico abbia l'accesso al più ampio possibile delle nostre opere, no alla demagogia e all'ipocrisia della musica gratis in rete. Notare, alla demagogia e all'ipocrisia della musica gratis in rete. È normale pagare un computer, una connessione, un abbonamento al trasporto e, puntini, rubare i contenuti e la nostra creatività, si domandano. Sì, al rapido sviluppo e alla promozione dei servizi legali per la distribuzione di musica online. No, non troviamo normale che il frutto della nostra creatività sovvenzioni lo sviluppo della banda larga e l'accesso alla rete. Sì, noi vogliamo continuare a negoziare liberamente i nostri diritti con i produttori. No, alla licenza legale per il peer-to-peer. Sì, a internet che permetta a tutti di comunicare, di moltiplicare l'offerta e l'accesso alle opere e a remunerare coloro che creano e che producono. Artisti firmatari: Biagio Antonacci, Simona Bencini, Samuele Bersani, Andrea Bocelli, Antonio Calò, Sergio Cammariere, Luca Carboni, Albano Carrisi, Piero Cassano, Ivan Cattaneo, Rosalino Cellamare, Ron, Massimo Chiti Conti, Massimiliano Colombo, Toto Cutugno, Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Tullio De Piscopo, Toto Cutugno, l'italiano vero, Luigi D'Agostino, Madonna, Luigi Nera, Elisa, Giorgia Roberto Feltracco, Tiraziano Ferro, Marina Fiordaliso, Gianni Fiorellino, Marco Ghislandi, Amalia Gre, Daniele Groff, Chiara Grezzi, Paolo e Chiara, Paolo Aiezzi, Paolo e Chiara, Enzo Iannacci, Paolo Iannacci, Patrizia Laquidara, Iannacci. Diego Enzo Leone. Iannacci. Ha firmato sta schifezza, no. Iannacci. Siamo fermati tutti e di Iannacci punto. Mi spiace. Luciano Ligabue, Giuseppe Mango, Paolo Martella, Mietta. Annalisa Minetti, Gianni Morandi, Trottolino Amoroso, era lei, Ruben era Paganelli, lei, era lei. Angelo Pandolfi, Adriano Pappalardo, oh, signore. Piero Pelù, Paola Peroni, Massimo Max Pezzali, Marco Pieraccini, Raff, Stefano Raffaini, Eros Ramazzotti, Raiz, Francesco Renga, Mario Rosini, Fabrizio Rubessi, Bobby Solo, Anna Tatangelo, Francesco Tricarico, Silvio Boldi, Linda Valori, Antonello Venditti, Giampaolo Viani, Federico Zampaglione, Tiro Mancini, Tommaso Zanella, Piotta. Qualcuno mi ricarica il Daniele, perché secondo me da raccogliere a questo punto. Amen. È una bella... E il Signore gliene renderà merito. Assolutamente. Tutti questi 60. Assolutamente. Ma voglio dire, io li penserò ogni sera, personalmente. È bello vedere che delle personalità di spicco del panorama culturale italiano riescono a essere così versate dentro i mutamenti sociali da... cogliere subito la freschezza dell'innovazione del peer-to-peer. Ma tu sai cosa mi colpisce veramente di questo documento? Il fatto che Piotta si chiami Tommaso Zanello. Ma ti rendi conto? Tommaso Zanello, Erpiotta. Erpiotta. Tutto il resto non lo so. Il resto è fuffa, però queste informazioni veramente spettacolari. Ma per Iannacci spiace, vero? Spiace, per Iannacci spiace molto. Non dire, ha capito i compagni che sbagliano. Però glielo potremmo spiegare, in effetti sì. No, oppure se vuole, non so, se vuole, se vuole scrivere lui a noi, ci trova loa@tcn.org, per cui... Però voglio dire, finalmente non dobbiamo più essere secondi a nessuno, neanche in questo. Oh, cioè, là, finalmente illuminaci, anche illuminaci, noi illuminaci. Abbiamo i nostri Metallica. Oh, perché avevamo bisogno anche noi di artisti che si schierassero contro questa piaga del peer-to-peer. Non è possibile, siamo sempre sulla scia di artisti stranieri. Finalmente così, una voce così, nazionale che dice no... Questo è un crimine che non di viene di quelli combattuto. Veri proprio. Oh, là. Soprattutto adesso voglio sapere come va a finire. Credo però di aver sbagliato la trasmissione. Mi sa che mi chiamano dall'altra parte. Non era radio di... No. Orca miseria. Ah, vuol dire che non andava a finire proprio. Guarda che sbagliate venerdì. Orca oggi, miseria, usate... guarda. Venerdì, guarda, posso dire... Sono sinceramente allora, imbarazzato. Aspetti, rinfresco la memoria. Sono le 2:33. Questa è Radio Popolare, questa è una certezza. Questa è Vacia Pai Mouse, la certezza già vacilla, ma tutto sommato potrebbe già essere una certezza anche questa. E stavamo parlando di quel simpaticone di Urbani e della sua simpatica leggina. Ma lì non c'è. Ce n'era una cosa ancora prima che volevo introdurre, che era abbastanza divertente. Ah sì? Sì. Il signor Vito Alfano, che a quanto pare... E chi è? Attenzione. Il signor SIAE. Un rappresentante. Ah, cioè, il signor SIAE ha un nome e un cognome, questa sì che è una notizia. No, è un rappresentante. Ah, ok, SIAE, ok. Il padrone della SIAE, la voce. In un convegno, questa è un'informazione che l'ho presa su Rai, su Rai.it. In un convegno ma su... Ma punto no, come quello di prima. Quello rotondo. Ah, ok. Dai, non me lo mettere in crisi, che poi si incarta punti virgole, due punti. Allora, dicevo, reset. No, dillo con parole tue. Sì, in un convegno sulla pirateria contro le opere dell'ingegno, sottotitolo, battaglia tra SIAE e liberisti delle telecomunicazioni, bla bla bla, Questo signor Alfano se ne è uscito parlando ovviamente malissimo del peer-to-peer, eccetera, eccetera, con una frase che è veramente epocale, dimostra... Cioè, non lo so cosa dimostra, però vabbè, fate voi, perché non sai... Tu leggila, poi decidiamo. Sono le querele, queste dici, cose... Dici, no, tu dici dimostra. Che però decidiamo. Se io fossi Bin Laden... immagino che, insomma, voglio dire, come esordio non è male. Se io fossi Bin Laden, come esordio è, se mio nonno fosse avesse avuto le rotelle, sarebbe stato un trauma. A me viene in mente quella roba lì. Comunque, se avevo le ali, immagino intenda Osama e non qualcun altro membro della sua numerosissima famiglia. Anziché spendere tempo e denaro ad addestrare piloti suicidi per gli aeroplani, non paga. Già, questa frase. No, perché li usi poco, come dire, insomma. No, vabbè, poi comunque ci sono molti dubbi che sia successo veramente così un po' di anni fa. Aprirei un piccolo sito in un paese africano o asiatico e metterei in rete, con la R maiuscola, gratuitamente tutti i nuovi film. Così in un paio d'anni Hollywood chiuderebbe e la nostra stessa civiltà occidentale andrebbe in crisi con i suoi valori di libera circolazione delle idee e di produzione culturale. È un genio questo signore. Questo associare questo terrorismo signore... internazionale è già di una stampo... bella cosa. Ma sì, anche sì, questo sì. Associare la cultura occidentale Hollywood mi spaventa. Devo dire soprattutto che, se cade questa, cioè siamo finiti. Sì, no, assolutamente, ma così si fa. Niente, questa qua, vabbè, deve essere divertente, sono invece non è divertente per un cacchio. Beh, con la temperatura che c'è, essere agghiacciati va già bene, insomma, quantomeno c'è il suo perché. E la fonte è Rai, Rai. Beh, vabbè, adesso. Beh, Rai. Sì, beh, vabbè. Viva la no, nel senso vabbè. Che... Cioè... No, nel senso... sottotitolo, diritto d'autore, virgola, un ostacolo allo sviluppo di internet, sono cose brutte, sono cose brutte proprio. E nulla, introduciamo allora appunto l'argomento, quello un pochino più serio adesso, dopo aver fatto le facce, dopo aver raccontato le facezie. Ah, adesso facciamo i seri adesso. Non speriamo più cazzate, speriamo per qualche minuto. No, poi riprendiamo a sparare cazzate. Ah, va bene, cioè, va bene. Non possiamo, abbiamo fatto troppi seri finora. E niente, quella bellissima legge, no, quel bellissimo decreto Urbani, che era quello, vi ricordate, che... introduceva sanzioni veramente pesanti per chi scarica e share, condivide file con i vari peer-to-peer, quindi Kazaa, Emule, bla bla bla, WinMX. Qui ci stanno succedono cose turche. Succedono cose terribili qua. Scene di alcolismo. Sì, scene di alcolismo che non vorremmo vedere, ma comunque. Tornando a noi. Esatto. Dicevo, questo bellissimo decreto appunto che introduceva come, boh, penso più specchio per le allodole, un pene veramente pesantissimo per chi penali nel senso di cosa, sei una bestia, è vero che i bambini sono a dormire, però insomma non dico più, sa mai, magari il caldo li insonni, perché appunto condivide file musicali o comunque opere d'ingegno protette da copyright eccetera eccetera. Introduceva una tassazione di qualsiasi supporto atto a salvare dati, quindi vabbè, cassette, CD vergini, DVD vergini, videocassette, mini disc, hard disk, lettore MP3, lettore DVD, flash RAM, pennette USB, schede perforate, tavolette di cera, CD-ROM, CD-RW, CD-writable, insomma, quelli, quaderni, insomma robe, qualsiasi cosa di, diciamo, tecnologico, elettronico, atto a salvare dati, introduceva tassazioni su queste cose, quindi adesso quando ognuno di noi comprerà un CD-ROM normalissimo per masterizzare magari i propri backup, cioè i propri dati per tenersi lì l'assicuro, comunque pagherà una tassa alla SIAE, perché comunque si suppone che lui questo CD-ROM, CD-writable, lo userà per copiare dischi eccetera. Quindi tanto vale farlo, ho già pagato. Sì, una presunzione punto. Di reato, un'ammissione di reato stessa nel pagare ciò. Sì, però appunto, nonostante questo, se scarichi e fai queste cose, ti blindano e ti becchi multe e paura. Tipo, leggevo una roba tipo da 51 a 2060 qualcosa euro ogni singola infrazione, quindi sospetto che ogni se io... ogni singola, per cui se te ne danno una decina sei rovinato a vita, insomma. Sì, cioè tipo sospetto che se io condivido, non so, 100 file... Che non so, tipo un giga e mezzo di MP3... è un fai i conti, fai i conti in euro, cosa viene? Anche se ti danno solo 50 euro di multa per ogni file, è un problema... E comunque questa qua era la parte, appunto, quella su cui tutti quanti sono spaventati moltissimo, il popolo della rete ha iniziato a fare insorto, ha fatto cose. E in verità, boh, si sospetta che questa qua fosse la parte, diciamo, appunto per attirare l'attenzione, mentre invece il vero scopo della legge fosse quello di far andare un sacco di soldi da altre parti, tipo al cinema italiano e altre cose, far venire fuori finanziamenti per altre cose. Dovremmo avere in linea uno dei politici che più direttamente si è occupato di questa vicenda. Vediamo se è con noi. Senatore? È in linea, senatore? No, buonasera, sì, sono in linea. Buonasera, senatore. Abbiamo il piacere di risentirla nuovamente qui con noi, anche se solo per telefono. Allora, quale novità ci porta sulle ultime attività? Bene, grazie, è un buon periodo. Cioè, dopo le lezioni la tensione scende di molto. Devo dire anche grazie a mio figlio che mi ha regalato una discografia completa dei Beatles. Sai, io li apprezzo molto, mi rilassano. Oh, accidenti, un regalo ben impegnativo per le tasche di un ragazzino. Ma no, alla fine un CD solo. Ma come? Ma non per contraddirla, ma scusi, secondo me si sbaglia. I Beatles hanno fatto altro che un album solo. No, ma sì, ma per chi mi ha preso lo so bene, sono MP3. Ma, no, ma scusi, come MP3? Ma McCartney si è finalmente deciso a fare il passo delle nuove tecnologie, allora? Ma no, ma senta, li ha incodati mio figlio, li ha scaricati da internet e li ha masterizzati. No, aspetti, no, ma come masterizzati? Decreti urbani? Cioè, non teme le conseguenze di questo gesto, poi per una personalità pubblica come lei... No, ma senta, il decreto è lì, basta leggerlo, se si vuol capire, si capisce. Scusi, ma cosa intende dire? Ma che mi stupisco che ancora esistano persone che prendono fischi per fiaschi, ma chi se ne frega del peer-to-peer? Ma secondo lei presentavo 750 emendamenti su una cosa seria? No, guardi, scusi, non la seguo, sinceramente non la seguo. Guardi, è semplice, secondo lei a che serve il decreto urbani? Ma, non so, tutelare il diritto d'autore degli artisti dal download in massa di brani. Ecco, bravo. C'è cascato pure lei che è un giornalista, da non crederci, ma faccia due conti. Diciamo che in Italia ci sono 1 milione di persone che scaricano quotidianamente musica dalla rete, per non parlare di film o altre opere. Dico, secondo lei abbiamo abbastanza agenti per perseguire anche solo un decimo degli illeciti? Boh, suppongo di no. E suppone bene, evidentemente non è quello lo scopo del decreto. Se l'avesse letto saprebbe che lo scopo reale è transitare denaro nelle casse del cinema italiano. Lei va al cinema? Ha presente i film di Vanzina? Ah sì sì, certo, li trovo pessimi. Ha ragione, ha visto quanto sono calati di qualità. Se non ricevono del denaro non potranno mai risalire la china, non creano più quelle gag di una volta. Ora, se Urbani vuole passare dei soldi alle etichette del cinema, non lo può fare sotto la luce del sole, deve prima distrarre l'attenzione. Ah, capisco, quindi intanto recupera i soldi delle ammende per passarle ai Vanzina. Ma no, quelli manco li vedranno mai, i soldi delle ammende, non ci sono ammende. Ora il gioco è scoperto, persino Urbani stesso e Stanca con lui stanno facendo retromarcia per tornare a un livello sostenibile pubblicamente. Beh sì, certo, la campagna Popolare Rete ha avuto successo. Forse un po' funzionalmente gli interessi di Urbani, ma comunque gli ha creato pretesto per retrocedere. Nah, non credo. Era già tutto preorganizzato. Guardi, la presentazione del decreto. Io ci appioppo 750 emendamenti. La rete insorge, arriva lo sparacchio delle elezioni, Urbani promette di ritirare. Io ritiro gli emendamenti e i Vanzina hanno lo stesso i loro soldi. Ah, tutto chiaro, ma perché ha ritirato gli emendamenti? Ma sa tanto, comunque l'avrebbero rifatta, quindi perché insistere? Sì, ok, ma sul suo sito c'è ancora notizia della presentazione in prima pagina di questi emendamenti. Non pensa che questo non sia molto corretto nei confronti di chi l'identifica? No, adesso lei è malizioso, è nulla di tutto questo. È solo che mio figlio è stato troppo preso con Kazaa per aggiornare le pagine, è tutto qui. Ah, allora ci promette che domani aggiorna la prima pagina del sito, no? Ma quanto è noioso, ma basta! Ah, va bene, d'accordo. La ringraziamo per il suo prezioso contributo, senatore. Senatore Cortina. No, il nome. Porello. Infatti. Bene, abbiamo avuto punto. Well, Brad and Janet, you've arrived on a rather special night. The master is having one of his affairs. Lucky old him. Yeah, he's lucky. I'm lucky. You're lucky. We're all lucky. All except Eddie. Oh, shh. Eddie? Shh. The delivery boy. His delivery wasn't good enough. The master was only trying to help the boy better his position. That's very commendable. Yes. It seems like only yesterday since he went... Where? To pieces! It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. A jump to the left, and then a step to the right. With your hands on your hips, you bring your knees in tight. But as the velvet grows, the Billy Johnson will change. Let's do the time once again. Let's do the time once again. It's so dreamy. So jump to the left, and then a step to the right. With your hands on your hips, you bring your knees in tight. But it's a pelvic thrust, the Billy Johnson insane. Let's do the time once again. Let's do the time once again. Walking down the street, just a having a thing. When I speak up a guy, give me an eight ball. بشر بالخير ونمن حنغني ودايما حنغني ونبشر بالخير ونمن الدنيا تدور على صوت النغمه الهدار الدنيا تدور على صوت النغمه الهدار ومعانا المشرق والبلسم والكلمة السمنوار ومعانا المشرق والبلسم والكلمة السمنوار واحنا كده وهيبقى كده واحنا كده وهيبقى كده واحنا كده واحنا كده وهيبقى كده دايما صح صح ماشيين على طول ماشيين دايما صح صح ماشيين على طول ماشيين revolution. Take me for your way. Revolution, revolution. Give me your hand. Revolution, revolution. Take me for your way. Revolution, revolution. Give me your hand. Juste la danse, pour marcher ensemble. Juste la danse, pour t'es ensemble. Juste la danse, pour marcher ensemble. Juste la danse, pour t'es ensemble. Revolution, revolution, je suis prêt pour toi. Revolution, revolution, je suis prêt pour toi. Eccoci qua. No, non volevamo fare un buco terribile. Ogni tanto ci riusciamo, facciamo delle cose terribili, ma vabbè. Ce ne andiamo, facciamo un giro per isolato. Sì, perché siamo un po' in giro, siamo un po' indisciplinati, come dire, per cui... Va bene, insomma, e dunque... Dove eravamo rimasti? Porello? Dunque, sì, abbiamo fatto un'intervista con il signor Porello, Cortina. Signor Porello, Unità vera, ovviamente, una presa per i fondelli del, invece, del reale senatore. Si chiama satira. Ah, sì, perché scusate. Sennò diventa un problema. Sennò c'è la querela. Sennò è un problema. Bravo. Satira, era satira. Ho satira. Sbagliato, mi veniva il nome. Bacia poi in mouse come Sabina Guzzanti. Penso che ci stanno già aspettando fuori. Secondo me adesso ci querela la Guzzanti per accostamento improprio. Ah, vuoi dire? Sì, perché se la prende. E quindi niente, questo qua era per appunto riparlare del decreto Urbani, che prima di passare a essere approvato come legge aveva avuto ovviamente un po' di ostruzione, un po' di gente che ha lottato contro. In primis appunto il senatore Fiorello Cortiana, che appunto all'altro giro non avevamo potuto nominare perché eravamo sotto elezioni. E quindi c'era la par condicio. Quindi non si poteva nominare. E devo dire, posso dire una cosa? Per fortuna. Posso dire una cosa? Che la par condicio, a posteriori, rispetto al caso specifico, per una volta nella vita ho pensato, meno male che c'è. Qui lo dico, qui lo nego. Però è andata così. Sì, perché effettivamente l'altra volta avevamo accennato che il nostro amico... Faceva battaglie nel rabbio. Faceva battaglie nel rabbio, ha presentato ben 750 emendamenti a questa legge. No, passeranno sul mio corpo, eccetera, eccetera. Assolutamente. Fino a che cosa è successo? Urbani ha detto, sì, effettivamente... rendo conto che questa legge non è proprio bella, dai, però dai, ti prometto... Vabbè, fai il bravo che poi la cambiamo. Dai, ti prometto che passa, ma poi la cambio subito, lui. Ah sì, mi prometti che la cambi subito, Urbani? Sì. Ah, ok, allora ritiro tutti i 750 emendamenti. Cioè, 700, ha ritirato 750 emendamenti, così, un, due, tre, non ci posso la credere. La legge è passata così com'era. Senza e noi stiamo ancora aspettando. Scusa, quando è passato? Che il signor Urbani dica, aspetta lì che tengo nota delle tue cose. Da due mesi, più o meno il 22 maggio è passata? Sì, praticamente sono ormai passati due mesi e stiamo aspettando che facciano questa sistemazione, siccome doveva ripassare nel caso di un decreto legge fatto apposta per salvare il cinema e sarebbero stati inseriti lì dentro le modifiche al testo di legge. Il testo di legge non è passato, se ne sono dimenticati tutti. Senatore si è dimenticato che ha vabbè, ma scambiato senatore, ma adesso anche tu però scusa ma vuoi mettere tutto quello che deve fare un senatore? Beh, un nodo al fazzoletto, ma mica scusa, tanto ma adesso no, adesso facciamo i precisi, cioè insomma deve andare dal sarto, farsi fare i vestiti su e voi mica sfiguri al senato adesso anche te però poi adesso insomma. Poi appunto sei anche parlamentare europeo perché e a maggior ragione insomma deve trovarsi l'albergo giusto, il ristorante giusto, è mica facile, è un sì, lavoro non vorrei, pesante non vorrei sospettare che questa campagna in qualche maniera fosse stata funzionale alle elezioni europee. No. Lungi da me dire una cosa simile perché non sono così malizioso. No, ma che malizioso sei, sì, guarda, no, infatti, smettila di fare codice arbitrario e di provare no, se infatti, funziona. Qualcuno potrebbe pensare questa cosa, ma ovviamente... Assolutamente, ma non ci permetteremmo mai, ma noi abbiamo rispetto per le cariche istituzionali, ma non scherziamo. Infatti insomma. È successo. No, sì, cosa come sarebbe stato detto comunque. È una tua interpretazione, Otto, per favore. È una tua interpretazione. No, no, assolutamente. Ci assumiamo tutte le responsabilità di quello che stiamo dicendo. Ce le assumiamo. Siamo proprio contenti di assumerci. Ma quando uno cialtroneggia. Insomma, ci assumiamo pure questa. Ma poi possiamo ritirare. Sì, perché qualcuno. Tu l'hai mica fatto nomi. Ha ritirato anche lui. Non posso ritirare io, faccio meno danni se ritiro io che non quando ritira lui. Comunque, appunto, a parte tutta la buffonata, secondo me, del presente degli emendamenti, non li ritiro, non li ripresento, eccetera. Sembra che adesso ci siano in vista delle modifiche. Sembra addirittura il ministro Stanca, che non mi ricordo cosa faccia nella innovazione tecnologica. Fa il ministro, anche lui stia proponendo alcune piccole modifiche, tipo una riguarda per esempio cambiare la dicitura per scopo di lucro con profitto. Sì, adesso è profitto, cioè chi scarica c'è per profitto personale, quindi come stabilito da un tribunale credo di Cagliari, anche scaricare un disco, anche semplice un MP3 è profitto perché io non ho comprato il disco, quindi non ho speso, quindi ho guadagnato. quindi approfitto. Scusa, io non spendo, io guadagno? Pare così. Ma sai, i primi soldi risparmiati... È difficile, È spostare i soldi da una tasca all'altra. Ma come, no, come, come dicevano detto, i soldi risparmiati sono i primi guadagnati. Forse hai pensato questo. Comunque, beh, questa proposta teoricamente punta a spostare, a far diventare per scopo di lucro, in dicitura. Ovviamente le major, quindi le case discografiche, parliamo in italiano, sono un po' incazzate per la cosa, perché ovviamente loro piacerebbe vedere evidentemente un sacco di ragazzini finire dietro le sbarre o pagare multe, paura che non si potranno mai permettere in tutta la loro vita e quella di eventuali figli che avranno. Bisogna farne degli esempi, ovviamente, colpirne uno fino alla terza generazione, però a questo punto, cioè, la prima non basta mica, perché si vede che appunto che le varie case discografiche non guadagnano abbastanza dai CD, per esempio, che costano solo, costano adesso 30 euro ognuno, qualcosa di simile? Sì, una roba del genere, devo 15. Dire, una roba del genere. non vorrei dire, però potrebbero anche, come dire, e cose di questo genere. E comunque tutto questo rumore, tutto questo casino, eccetera, viene fatta solo per la parte, diciamo, specchietto delle allodole della legge, che è l'articolo 2, quello sull'inasprimento delle pene contro chi share, eccetera. Tutta la parte di donare soldi, ma tanti soldi, adesso non ho esattamente sotto mano le cifre, comunque beh, il testo si trova tranquillamente in rete e ognuno si può fare i propri conti. Dicevo, sul sito del Senato, per esempio, si trova www.senato.it, dentro si trova la legge. E su questa parte qua, appunto, che fa sì che un sacco di soldi vadano a finire appunto nelle tasche di chissà chi, su questo non dice nulla nessuno, nonostante, come dire, abbiamo un po' di problemi da questo punto di vista, dato che tutte le varie promesse di tagli di tasse, eccetera, come dire, vabbè, non devo sto qua a dirlo io. No. Io avrei ben motivo di dirlo, però sì, anche perché è una questione mia personale. Ce l'aspettavamo, come dire, insomma, uno dice faccio i compiti, fai i compiti, insomma dici cosa hai studiato. Ah no, era questo. Va bene. In sostanza, adesso il quadro della situazione è che questa legge, che è diventata legge dello Stato, ha delle falle che vengono ammesse anche dagli autori stessi della legge, che quindi si stanno preparando pubblicamente a una retromarcia. Addirittura Urbani stesso, quando è passata questa legge, ha detto la famosa frase, no? Facciamo la legge come non si dovrebbe fare. Che bello! Guarda, io che darei, è una roba tipo, adesso che abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare l'Italia. Infatti sì. stavo pensando, io gli darei dello statista, assolutamente. Guarda. Dichiarazioni così, veramente. Sono quelle dichiarazioni che proprio ti restano, restano dentro. La caratura è evidente. Il personaggio piccolo fuori tema, Urbani, è quello che quando Cannes ha vinto Fahrenheit 9/11, il film di Michael Moore, ha detto una roba tipo, questo è un film politico, a me piacciono i film d'arte, questo qua non doveva vincere. Vergogna. E poi mi chiedo, come cazzo ti permetti, c'è una roba in Francia? È un problema di gusti anche, mettiamola così, insomma, magari non gli è piaciuto, c'aveva una fotografia che non gli piaceva, sono titoli brutti, insomma. No, cosa giusto per dire il personaggio. Sì, è un problema in Francia, perché a quel punto, quando ci sarà il Festival di Venezia, sappiamo già che... Fra arrestare i giudici... Assolutamente. Va bene, poi cosa diciamo di bello su questa cosa? Basta, c'è rotto. Ne abbiamo anche già parlato troppo, tutto sommato. Sì, direi che è una telenovela comunque. Continua da quest'anno, 5-6 mesi, sì, ormai che ne parliamo, ci sono sempre interessanti novità. Assolutamente, è come una telenovela, è vero. Sintonizzatevi ancora. Cioè, è meglio di Elisa di Rigombrosa, questa cosa qua. A meno che non ci siano modifiche sostanziali, cose simili, che la prossima volta... Vabbè, insomma, quindi cosa facciamo? Volevo fare lo spottino mio. Piccino. Che bello chiamare Ciccio Piccino, perché non siamo in televisione. Ma chiamare Ciccio Piccino c'ha il suo perché. Volevo dire che stasera abbiamo mandato un tot di brani di un CD che hanno fatto alcuni miei amici, adesso mi vergogno a dirlo, però in realtà mi fa... Perché è clientelismo vero questo. Sì, lo so, Vabbè, sono troppo contento, loro sono di Altamura. che si chiamano Kerlocks da Bene. Sì, ma a me cosa mi rappresenta? Che loro sono di Altamura? Sì, ho bisogno di affetti. Ah, così. Ah, vuoi dire che sei di Altamura anche sì, tu? Sì, sono di Altamura anche io. Diciamo non si prima, sente. Quindi c'aveva il suo perché. È strano perché mi sono così tanto allenato nel mio accento settentrionale, pensavo di essere diventato un po' svizzero. Ma infatti è per questo che chiedevo se tu fossi di Altamura, perché ero stupita di questa cosa. Avrei detto Canton Ticino, proprio. Un po' a sud magari, però Canton Ticino. Anche i capelli biondi e gli occhi azzurri. Gli occhi azzurri, sì, però la barba platinata, per cui insomma. Baffia vichingo. Esatto. Come che si chiama questa trasmissione? Bacia Pai Mouse. No. Cos'è sta roba? No. Niente. adesso insomma. Vabbè, niente, comunque abbiamo sentito un tot di questi pezzi qua, se ne mandi un altro io sono felice. Ah, non lo so mica se ci aspetta. Pessimo. Adesso noi verifichiamo, capiamo se abbiamo il CD da qualche parte. Guarda, forse mandali sì. La 4, che siamo al signor gli mandiamo la 4. Aspetta che qui stanno smanettando. Sì. Vabbè, vi mandiamo la 4. Sto cadendo sempre più in basso. Signori padroni, ah, perché Mamma Palestina, asciugate le lacrime. Mamma Palestina, il sole si avvicina. Mamma Palestina, io vedo la collina. Mamma Palestina, piena di mujahedina. Sionisti assassini, questa è la vostra fine. Sionisti assassini, questa è la vostra fine. Mamma Palestina, mamma Palestina. Mamma Palestina, mamma Palestina. Vabbè, non ve ne facciamo sentire un altro, eh? Va bene le sponsorizzazioni, gli amici degli amici, però insomma, vabbè, ne avete già sentiti una schiera, basta, abbiamo deciso che stasera gli amici del nostro simpatico Ciccio, gli amici di Altamura, ho interrotto gli amici di Altamura, so che sarò punita molto. Ascolta, ma se qualcuno decide che questi amici di Altamura gli sono piaciuti. Non fare quello che dice comprate il CD perché ti sparo se dici una cosa del genere. Stavo cercando di contatti. Ok. No, digli andate al Altamura e chiedete di loro. Ah, così proprio. Conoscono. Ah, Cioè non si paga il copyright, si paga il viaggio, l'azienda del turismo, beh, ringrazia. Cioè, beh, è un bel posto, lascia per. Insomma, racconta chi sono questi qua, perché hai detto solo che sono amici tuoi, no. Ciccio, non basta, per riuscire a recuperarli. Hai ragione, io... Beh, sono proprio contento di poterne parlare. Oh là, dai, su, 5 minuti di celebrità, non si negano a nessuno. In sostanza loro sono un gruppo che si è sviluppato negli ultimi 3 anni ad Altamura. Altamura in provincia di Bari, una città di circa 65.000 abitanti. Io dico sempre che mi ricorda Monza come ambiente, nel senso che mi sembra... C'è la Brianza del Sud, praticamente. Sì, sostanzialmente sì. Vabbè. Altamente produttiva, molto conservatrice, è una realtà immobile. E loro fanno un lavoro che, diciamo, adesso si è espresso nel CD, un CD a cui alla fine hanno partecipato un totale di persone, perché sono 2 anni rotti di lavoro comunque. Ma che a fianco a questo portano avanti una serie di contatti con la comunità magrebina e come si chiama? C'è un termine? Rom. Grazie. Rom e Sinti. Troppo tardi adesso. E la comunità Rom giù, che è particolarmente ghettizzata, soprattutto perché sottostà una serie di aiuti che passano soltanto per le mani della chiesa. Beh, mica solo giù, mi viene da dire. Sì, beh, io ovviamente, come dire, riporto questa piccola realtà per dire il lavoro che fanno loro, tant'è che al CD hanno partecipato anche sia partecipanti della comunità, sia rappresentanti della comunità Rom che nordafricani. E per esempio nel pezzo di Mamma Palestina, che era quello di prima, l'ultimo che abbiamo sentito, c'era la voce di Bobo. Bobo è un ragazzo che ha, come dire, affetto da problemi di comunicazione, e credo che sia un ragazzo down, o comunque qualcosa del genere, adesso non vi saprei indicare esattamente la sua malattia. E lui per esempio ha partecipato a questo progetto, si è fatto tirare in mezzo ed è oramai una delle colonne portanti del gruppo, perché ha un sacco di energia, si è buttato sugli strumenti musicali e c'è questa bellissima comunità che si è creata intorno al gruppo, e loro hanno fatto una serie di concerti, autofinanziamento eccetera eccetera, e poi hanno tirato fuori questo CD. Ma l'abbiamo detto come si chiama il gruppo? Secondo me no. Il gruppo si chiama. Ah, ok. Scusi, perché ci stiamo girando intorno da che bello. Sono di Altamura, gli amici. Loro si chiamano Kerlocks Dub Band. E il titolo del CD è Dub Circus. Ripetiamolo un attimo. Così è giusto per fare quelli che, se dobbiamo fare la pubblicità, facciamola a sto punto. Ma facciamo la serie. Mando la registrazione, e se non mi offrono da bere, poi vediamo. Kerlocks Dub Band. E il CD si chiama Dub Circus. È uscito, credo, la settimana scorsa. Hanno un sito, qualcosa da cui recuperare informazioni? Credo di sì, in realtà stavo cercando appunto questo prima, però nonostante mi sia ascoltato con piacere il CD, devo dire che non ho letto con altrettanta attenzione mi è indicato un... Ah, grande, grande show. Allora, in effetti ci potevo arrivare. www.kerlocksdubband.it. Oh, là. Basta, e poi vabbè c'è l'email, che è kerlocksdubband@libero, però siccome di libro non no, no, no, vabbè, ripetiamo il sito, insomma, perché www.kerlocksdubband, tutto attaccato, sì, kerlocksdubband.it. Ok, anche vogliamo raccontare come è scritto Kerlock, così, giusto, perché l'ora è tarda e magari giusto, sai. K-Empoli Roma, K-Empoli mi sembra stupendo. Comunque continua così, che vai, vabbè, bene. Kerlocks, che praticamente è una sorpettura di Carlo. Ah. Kerlocks. Sono d'Altamura, sono io che sto in giro, loro sono d'Altamura, è vero. Sono un sacco di soprannomi nei ringraziamenti. Va bene, va bene. Va bene, insomma, finito lo spottino. La X in fondo è come Linux. Io li voglio salutare tutti col cuore. Ma salutiamoli tutti, guarda, ma salutiamoli tutti, ma perché no? Un saluto non si nega a nessuno, per carità, Altamura, poi per carità. Insomma. Va bene, però, visto che adesso ti abbiamo fatto fare lo spottino, abbiamo fatto una serie di cose, e la nostra punizione quotidiana, sì, e dobbiamo averla tutta. Perché adesso chi è che ci deve raccontare delle cose tremate? Odo. Bravi. Cioè, e questa è una minaccia, una promessa, una minaccia, secondo me. Allora, Odo ha deciso che ci racconta il Trezeg Meeting. Lo farà con parole sue, ci metterà 6 ore e mezza, ma a un certo punto lo sfumiamo, non è un problema, insomma. Odo, sì, è il tuo momento. Guarda, ti abbiamo tenuto lontano dal microfono una sera e ci siamo riusciti. Non festeggiamo che è tornato tra di noi dopo. vero, sì. Oh sì, dai, vero, oh, bentornato, bentornato. Una convalescenza, perché certo, l'ultima volta era per legato telefono. Fuori dal microfono. Eh no, ma perché il problema è che l'ultima volta lui era per telefono, e per telefono, devo dire, fa la sua porca figura, perché uno sì, tira giù il cursore, ciao, e lui ha finito. Quando è qui è difficile riuscire a tenerlo, ma c'è un trucco. Sì. Stasera le sedie in studio erano poche. Odo non è stato abbastanza veloce a conquistarla subito. E quindi è rimasto nelle retrovie ed è rimasto zitto finora. Sagace. Esatto. Invece adesso le persone sono andate via e le sedie e sono lui libere. Ha conquistato la sedia, il microfono e le cuffie. Siamo tutti rovinati. Vai. Però mo ce tocca, no. No, quello no. Quello no. Vai, Transac Meeting. Dai, su, raccontaci sto Transac Meeting che poi mandiamo a dormire tutti e andiamo a dormire sì. Anche noi magari. Transac Meeting è stato il primo meeting internazionale europeo del sostanzialmente dello meeting di chi de che meeting hacker. Bravo. Sostanzialmente questa mi sembra un'informazione fondamentale. C'era praticamente di tutto e si è svolto a Pola in Croazia, erano presenti rappresentanti da numerose comunità europee, allora che poi diciamo Istria perché sennò uno croazia pensa delle robe che uno dice in fondo, insomma è per in no, cima no, è proprio in cima sì, insomma sì. Pure al confine Va bene. E in pratica erano presenti c'era presente gente che veniva da Italia, Francia, Spagna, Germania. Bella, già preso il linguaggio locale, però che veniva da Italia. Cioè, abbiamo già eliminato l'articolo in tutto ciò. No, lui ha già colore. Cioè, assolutamente, l'articolo questo sconosciuto. Ma no, non chiamare quello di vabbè, comunque veniva da Italia, anche da Svizzera. Veniva anche da Svizzera e da Francia. Spagna e Olanda anche. Sempre senza articolo, sempre senza articolo. E perché sennò non Austria? Si capiva. No, non vale Austria. Non... Come non e, vale? Ti giocherò pure un'altra carta, messo... Ungheria, hai visto? Orca c'erano anche i rumeni? No, i bulgari. Però mi devi essere preciso. Ma io non hai studiato, non hai studiato. E l'ora è tarda, l'ora è tarda. Sì. Vabbè, l'ora è tarda, al di là di questo difficile. La tragedia di incombe. Assolutamente, incombe sovrana. Al di là di questo, cerchiamo di riacciuffare la situazione. Al di là di questo dato demoscopico, no? Sì. Perché? Parla difficile per recuperare la situazione. Sostanzialmente perché, perché è un Transac Meeting? Praticamente per rafforzare i legami che ci sono tra le comunità e le relazioni tra di loro, per dimostrare in pratica che... Tra di loro si chiama fuori, proprio. Dice tra di non loro. Non possiamo parlare veramente qui. No, ma è troppo divertente, perché tanto Odo non si fa inter, lui non perde il filo, a differenza di qualcun altro, lui non perde il filo, ahimè. In pratica il modello di EC Meeting italiano e spagnolo, a differenza delle altre forme di riunione o di convegno, o raggruppamento, campo, o come devo viene chiamato, adunata. A sembra mucchio. Adunata, okay. Sediziosa. Come rispetto a come vengono fatte negli altri paesi europei, il sistema italiano e spagnolo, quello praticamente basato su autogestione, su budget sostanzialmente zero, su partecipazione e presenza di persone che contribuiscono fattivamente all'incontro, senza avere ospiti di rilievo o senza ospiti di rilievo. Ma cazzo, ma c'era Stallman, hai capito? Come nel senso di Leo, c'era Stallman a Bologna. All'EC Meeting italiano. Vabbè, perché era lì. Beh, abbiamo detto va Holland. È venuto a chiedere due birre. Va Holland, che prima di schiattare è passato da Milano. Perens. No, non c'è. Però hai ragione, non era l'EC Meeting. Scusate. No, il problema è che in ogni caso quelli facevano parte del meeting, a differenza delle altre forme di incontro, come poteva essere ad esempio HAL 2001, piuttosto che il camp, piuttosto che esattamente quello in cui... Ma non mi vedono, non puoi dire esattamente quello così. Vabbè, riusciamo a farcela a dire cosa è stata sta roba? Ciccio dimostrava segni di insofferenza. No, e in pratica è stato molto comodo per... Allora, mettiamola così. L'EC Meeting, che è una roba che di solito si fa qua, cioè che di solito, insomma, che si fa a livello tutte nazionale. Quello lì si chiama Transac Meeting perché è stata una roba a livello europeo. Sì. E fin qui ci punto. Siamo. Dai, racconta cosa è successo. Cioè, Shodan, morirai. Anzi, forse sei già morto. Abbastanza. Vabbè, insomma, è stato bello, c'era il mare, ma insomma, che cazzo è successo a Stentrans Meeting? Si può sapere o no? Sì, praticamente è stato utile per rafforzare i legami con le altre... Oh, là. con gli altri gruppi europei per trovare nuovi modi per relazionarsi, ad esempio per installare, oltre alla parte più tecnica, i seminari più esplicitamente hackeri o più... Ecco, quali erano i seminari, per esempio? Seminari c'erano, no, presentazioni di software, come ad esempio poteva essere Soma, oppure la dimostrazione dell'utilizzo di CineLer, cioè programmi per montaggio video oppure utilizzo audio, e questi erano i seminari più tecnici. Nell'altro caso c'erano, esistevano seminari più politici o più utilizzo sociale, cioè in pratica il fatto di poter dimostrare o di poter descrivere come funzionano gli club italiani per poterli poter esportare oppure poter proporre un modello di questo genere. Infatti uno dei seminari che appunto è stato più secondo me importante, oltre che frequentato, è stato appunto quello di incontro fra le varie comunità e anche non comunità, nel senso di persone che avrebbero interesse a far partire una cosa di questo tipo, che vengono dai vari paesi. E su questo ci si è confrontati su parecchie dimensioni nazionali, che ovviamente si vivono situazioni differenti visti i contesti differenti. C'erano persone dalla Spagna, dall'Italia, dall'Olanda e molti altri dall'Inghilterra, per esempio. E c'erano anche, per esempio, delle persone come una dall'Ungheria, che è venuta dicendo: io ho saputo di questa comunità leggendo Indie Media, sono molto interessato al lavoro che fate, però sono da solo e quindi sono venuto per capire come... Esatto, sono io la club e quindi sono venuto per capire come funzionano queste cose, per capire che tipo di lavoro posso poi riportare a casa. Una cosa che mi è piaciuta particolarmente è stata la riflessione sulla differenza modalità organizzativa degli hacker in Europa. Nel senso che poi da questo incontro qui è saltato fuori che la parte dell'Europa meridionale è denotata da una presenza sul territorio abbastanza distribuita di gruppi di hacker auto-organizzati sotto varie sigle, più o meno istituzionali, più o meno associative, più o meno invece movimentiste o politiche. Mentre la parte settentrionale ha più una compagine associativa, nel senso proprio di associazione riconosciuta vera e propria, una roba come può essere tipo il Chaos Computer Club, nel senso con un pagamento di una quota e sponsorizzazione di eventi, così di questo tipo. E per cui la parte underground nell'Europa settentrionale ha una capacità di organizzare eventi come possono essere quelli degli hack meeting, che è limitata. Perciò ci sono invece questi grandi gathering, cioè queste grandi riunioni, che sono però, come dire, coprono un arco completo a 360 gradi dall'estrema ribellione e come dire, anche l'estrema lotta sul campo digitale a invece chi è dall'altra parte, quindi alla polizia, alle case di software e a quella che può essere la propaganda commerciale. Tant'è che si diceva che il Transact Meeting come momento di come ponte culturale europeo dovrebbe cercare di darsi tra gli altri obiettivi quello di instaurare un circolo virtuoso tale per cui alcune caratteristiche e capacità organizzative della parte settentrionale dell'Europa passano alla parte meridionale, tanto quanto invece la capacità di fare collettività e di organizzare eventi partendo dal basso senza aver bisogno di risorse esterne dovrebbe cercare di spostarsi più verso il nord e quindi magari con il Transact Meeting fare una sorta di tournée annuale in cui cercare di spiegare questo tipo di, cioè spiegare tra di noi quello che significa fare hacking. È quello che stavo cercando di dire finché non mi avete fermato. No, ma continua, Odo, puoi continuare. Prendi la palla al balzo e poi la muovi. Puoi continuare a questo punto. A questo punto si può definire o descrivere o discutere dei modelli nordici, come ad esempio è stato il camp dell'anno scorso, il camp tedesco fuori Berlino, che aveva praticamente avuto una forma di organizzazione, una forma di inquadramento sin troppo esagerato, cioè c'era troppa banda, c'era troppa gente, era tutto troppo. Nel senso che comunque non consentiva tanto la possibilità di relazionarsi direttamente, ma c'era gente che era andata là solo per scaricare file, cioè una cosa assolutamente inutile rispetto al fatto di poter conoscere, quantomeno dialogare o verificare esperienze differenti. una cosa abbastanza simile era successa in Olanda anziché in Germania nell'al 2001, altro esempio, altro episodio in cui in pratica era più una grossa saga, un grosso, si può dire, Lamparty, molto molto tecnico, ma con una piccolissima quota di seminari più diciamo più politici e più relative al lato sociale. L'unica cosa, ad esempio, l'unico meeting o l'unico incontro del genere che possa avere una maggiore, una, diciamo, una minore rilevanza tecnica potrebbe essere l'OP di quest'anno, che sarebbe che appena terminato a New York, in cui una gran parte dei seminari parlavano di controllo piuttosto che intercettazioni, piuttosto che forme di, a questo punto, repressione da parte degli stati, visto che in America hanno anche la Patriot Act è entrato in vigore e, ad esempio, per andare direttamente, per andare a vedere un hack meeting e entrare negli Stati Uniti ti viene richiesto dati biometrici piuttosto che la fotografia in dogana, che sono cose che in effetti non hanno. Invece io sapevo che qui in Italia, per riportare il discorso all'oggi e al qui, qui in Italia ci saranno degli altri incontri, nel senso che oramai quest'anno è stato abbastanza pieno di eventi hacker, diciamo così. C'è stato l'hack meeting di Genova. Poi c'è stato il Transhack Meeting. Adesso ci sarà questo incontro organizzato dalla Metrolo Graphics, no? Sì, ci sarà il MOCA a Pescara, 20, 21, 22 agosto. È una specie di hack meeting organizzato dalla Metrolo Graphics, che è una delle associazioni più antiche in Italia. Per il decimo anniversario viene organizzata una specie di camp con molti contenuti tecnici, ma sostanzialmente con la voglia di rincontrarsi a 10 anni di distanza. Vorrei ricordare che esattamente 10 anni fa era successo il crackdown italiano, da cui era poi nata sia Metrolo Graphics che Freaknet, al CEI e un sacco di altre associazioni. Per cui 10 anni dopo si cerca di fare un po' i conti o rivedersi per verificare cosa è successo in questi 10 anni di, comunque sia, dal primo giro di vite al secondo, Urbani permettendo, che si preannuncia anche abbastanza duro. Va bene. Volendo, un altro appuntamento sarebbe possibile lanciarlo, che è ad ottobre, che è invece l'hack meeting in Spagna. Spagnolo, è vero. Che quest'anno è in Galizia e adesso non ricordo esattamente i giorni, non so neanche se li abbiano già fissati. Non credo, però. Ma tanto avremo modo di parlarne, sì, comunque. Sicuramente. Una cosa che potremmo fare, già che stiamo lanciando robe, lanciare il prossimo appuntamento nostro, non come data precisa, ma come periodo. Il fatto che c'è l'email. E basta. Preannunciare, eventualmente far odorare che ci saranno delle novità, ma di quelle proprio strepitose. Intanto cominciamo stasera a raccontare. Sono proprio un imbonitore, ma guarda, ma veramente sei proprio per lo spottino stasera. Guarda che bello. Vabbè, cominciamo a ricordare che se il mondo vuole scriverci, insultarci, chiederci cose, raccontarcene altre, finalmente c'è esiste un indirizzo a cui farlo. Allora, l'indirizzo è vcm, come bacia Pai Mouse, vcm@autistici.org. Ripetiamo, mi piace, ma questa cosa di ripetere VCM, stasera. vcm@autistici.org. Daniele, anche tu? vcm@autistici.org. Direi che su Daniele possiamo chiudere. Va bene. A questo punto, che dire, buonanotte. Ci vediamo alla fine di agosto. Fine di agosto, alla prossima. Settembre. Ciao. Ciao. Ciao. Buonanotte. Trippon, serve un po' di Windows. Ma bacia Pai Mouse. Bacia Pai Mouse. Incontri e avvistamenti dalla strada al cyberspazio. Un programma a cura dell'OAD.